Dico due parole, due a modo di introduzione. L'antefatto immediato di questa serata risale a qualche settimana fa, precisamente al 29 luglio, quando Alessio e io ci incontrammo al Festival dell'Alta Felicità Venaus. Quel giorno erano previste due presentazioni, quella del libro di cui si parlerà stasera e quella di un lavoro fotografico di Iskra Coronelli, una fotografa molto brava che aveva documentato tutte le lotte in Valsusa e poi aveva girato per l'Italia e ha pubblicato un altro libro fotografico, Terre in difesa. Gli organizzatori avevano combinato un po' di casino e quindi entrambe le presentazioni erano state fissate allo stesso orario. Per cui invece di tirarne una, accorciare l'altra, eccetera, si è deciso di farle tutte e due insieme. E quindi in un'alternanza tra discorsi sui luoghi, perché lì si era proprio sui terreni dove iniziò la resistenza contro il TAV a Venaus, quindi sui luoghi, la memoria delle persone, le immagini, i significati che stanno attaccati a queste immagini e a questi vissuti, e invece brani, racconti e canzoni del libro. E funzionò bene quella presentazione incrociata. Per cui alla fine di quella presentazione si parlò un poco, a parte aggiornamenti sulla situazione relativa alla guerra, come la vedono i compagni, le varie situazioni, eccetera, si decise di farla qui. A quella presentazione si aggiunsero poi le idee che avete maturato insieme e quindi di fare una presentazione cantata, non un vero e proprio concerto, ma una presentazione cantata. È per questo che siamo rimasti bassi e non siamo saliti sul palco, perché salire sul palco avrebbe impedito il dialogo con i presenti. Ecco, solo questo. Per cui i nomi me li sono scritti perché non vi conosco personalmente bene, quindi Rocco Marchi, polistrumentista, ecco, e basso, e Guido Baldoni invece alla fisarmonica e alla voce. Poi magari potrete dire più estesamente lo spettacolo vero e proprio che portate in giro, anche un po' la sua storia, eccetera. Però questa sera abbiamo scelto questo formato intermedio e basta. Ecco, l'ultima cosa, è una presentazione, quindi è ingresso gratuito come tutte le presentazioni che facciamo. Siccome però abbiamo un po' di costi per dare qualcosina di rimborso agli artisti, prima, durante e dopo lasciate un obolo, che siamo peggio di poverelli di Assisi. Quindi ovviamente, se volete, a questo punto, essendo una presentazione, insomma, se avete dubbi o cose, potete intervenire. Vi pregherei di non farlo mentre canto. Ecco, nel caso, cioè, ecco, questa è l'unica cosa a cui vi... che altro? Uno degli elementi, secondo me, una roba a cui io non pensavo... Allora, questo libro qui, subito a dirlo, questo libro qui non è una mia proposta, nel senso, non è una mia proposta all'editore. Voglio assolutamente fare un libro sui canti della resistenza, non ci pensavo proprio in un certo senso, nel senso che le raccolte di canti, secondo me, sono una roba un po' di un'editoria superata dal web, nel senso che non dico tutte queste canzoni, ma una buona metà noi oggi le troviamo sul web, i testi di queste canzoni. Però è pur vero che non sempre sono affidabili, a volte sono varianti diverse, eccetera. Invece chi le stampa si prende la responsabilità di dare, non dico il testo giusto, perché come sapete nella trasmissione orale ce ne può essere uno più affidabile, ma non ce n'è uno giusto definitivamente, perché la trasmissione orale per sua natura tende a delle piccole variazioni, anche proprio necessarie all'uso, al luogo, alla condizione. Però diciamo un testo più affidabile. Poi ci sono ovviamente il piacere di come organizzare, di come raccontare un'esperienza fondamentale come la resistenza, finché è ancora possibile farlo, come raccontare la resistenza attraverso i suoi canti. Ma la cosa che proprio, cioè quando, comunque appunto no, non ero io, è l'editore Mimesis che a un certo punto ha preso contatto con me attraverso un nostro vecchio amico che è Marco Filopat, col quale avevo fatto un libro su Ivan Della Mea, quindi sono tantissime le strade che passano dal Conchetta, come sapete Ivan Della Mea e Primo Moroni sono stati legatissimi e Ivan era così legato al Cox che credo che la prima versione dell'Internazionale di Fortini, registrata da lui, sia stata registrata in questa sala. Per cui, diciamo, ci sono molte, molte cose che ci legano. Io ho dedicato 2 anni della mia vita a fare ricerche sulla vita di Ivan Della Mea e poi altri 2 anni noi stessi che siamo qui sopra a fare un disco che, diciamo, provasse a restituirci la memoria di questo che non era solo un grande cantante ma anche un grande intellettuale, insomma, magari si sarebbe offeso a sentire questo termine, anche un grande intellettuale in questo senso qui. Poi con questo io, diciamo, non, di mestiere non scrivo libri, faccio dischi soprattutto, però invece l'editore in un tempo brevissimo mi ha commissionato questo libro qui. E io mi sono chiesto, ma che cosa avrò da dire? Perché c'erano dei libri molto belli su questo. Uno del 60, quello curato da Roberto Leidi, prima pubblicazione etnomusicologica dell'Istituto Ernesto De Martino, o meglio, di quelle che allora si chiamavano ancora Edizioni Avanti. E poi, più tardo, esiste un altro volume del 1985 curato da Michele Straniero e Virgilio Savona, che diciamo sono i 2 testi di riferimento. Ma come avete sentito, 1960-1985, insomma, sono quasi 40 anni che non veniva pubblicato un nuovo testo. Quelli restano testi di riferimento, assolutamente, però fatti ancora in una condizione in cui c'erano tanti partigiani viventi. Cioè non si sentiva il bisogno di raccontare la storia che c'era dietro i canti. Il bisogno che si sentiva era quello di dargli uno spessore etnomusicologico, di raccontare la ricerca che era stata fatta, le varianti. Quindi venivano fatte con questo spirito qui, con lo spirito di ragionare sui testi, sulla formazione dei testi, sul senso dei testi, sul rapporto fra il canto partigiano e il canto operaio, il canto contadino, il canto tradizionale, il canto epico lirico. Quindi avevano questa impostazione qui sacrosanta all'epoca. Ma trovandosi 40 anni dopo, con i testimoni diretti ormai del tutto scomparsi, con questa storia consegnata alla storia con la S maiuscola, con grandi storici come Claudio Pavone, Mimmo Franzinelli, insomma tanti storici che parlano della resistenza, ma anche una serie di storici, diciamo, di parte, reazionari, che tentano di demolire o quantomeno di diminuire la storia della resistenza, e dei pennivendoli che hanno scritto orrendi libri contro la resistenza, celebri quelli di Panza, no? Che voglio dire, ecco, quindi ci troviamo in una condizione diversa. Da una parte la storia consegnata all'università, all'accademia, e dall'altra parte una pubblicistica che tende a dire ma i partigiani erano dei begli stronzi, cioè un po' questa cosa qui. Fra queste due cose qui io non ho nella pretesa, ovviamente io sono questo non è un libro come dire oggettivo, o meglio lo è, ma è un libro di parte, da parte di uno che si considera un militante, quindi da questo punto di vista, però un militante anche abbastanza serio da provare anche a toccare quelli che sono i nodi irrisolti della resistenza, che come sappiamo è un'unione di gente che la pensava come me, ma anche di gente che la pensava in maniera molto diversa da come la penso io e da come probabilmente la pensiamo noi. E questo volevo rappresentarlo attraverso la molteplicità dei canti, perché ci sono canti ovviamente di partigiani garibaldini, ci sono canti di partigiani libertari come me, ma ci sono anche canti di partigiani di Giustizia e Libertà, che quindi erano liberali, liberal-socialisti, oddio ce ne fossero, alla maniera dei Fratelli Rosselli, ma c'erano anche canti, per dire, di partigiani, diciamo, fiamme verdi, partigiani ossovani, quindi partigiani monarchici, sostanzialmente, quindi reazionari dal mio punto di vista. E anche questi sono comunque rappresentati, ovviamente col mio punto di vista, che è più vicino a quell'altra parte, ecco, evidentemente. Ma ciò che veramente, secondo me, c'era bisogno di fare era raccontare le storie. Non la storia con la S maiuscola, ma le storie con la S minuscola. Perché quelle si stanno perdendo. Perché quelle nessuno le aveva messe assieme. Si trovano frammentati tante testimonianze memorialistiche. Chi si occupa di queste cose sa magari chi ha scritto Fischia il vento, chi ha scritto Dalle belle città, quale divisione, se mai ce n'è stata una, visto che è uno dei problemi più dibattuti, ha mai cantato Bella Ciao negli anni dal 43 al 45. Ma le singole storie, queste cose qui le andiamo perdendo. E invece io continuo a pensare che i canti della Resistenza sono essenziali per un fatto puro e semplice. Noi abbiamo solo due testimonianze dal vivo, dalla viva voce della Resistenza, perché le altre sono ricostruzioni fatte magari da chi l'ha fatta, ma fatte dopo. Invece noi abbiamo due sole testimonianze. Una è tragica per sua natura, perché sono le lettere dei condannati a morte della Resistenza, un libro fondamentale voluto da Giovanni Pirelli e da Piero Malvezzi, libro leggendario, non c'è bisogno di parlarne. E poi abbiamo le canzoni. Le canzoni era ciò che i partigiani cantavano mentre facevano la Resistenza. E quindi ci raccontano qualcosa che, secondo me, rischia di sfuggire alle ricostruzioni storiche e alla memorialistica, cioè la vita della Resistenza. Il fatto che fossero ragazzi tendenzialmente di 20 anni o poco più, che avevano quindi passato l'intera vita sotto il fascismo e che per la prima volta, magari rischiando la vita, magari rischiando la tortura, magari rischiando la galera, ma erano, oso questa parola, felici. Felici di fare una cosa che per la prima volta gli assomigliava. E secondo me dalle canzoni, anche dalle più tragiche, emerge questo senso di gioia della ribellione e dell'insurrezione. E a me, come musicista, come militante, è la cosa che interessa di più. La gioia della Resistenza, la gioia di ripartire da lì, dalla possibilità di prendere collettivamente in mano la propria vita per cambiarla una volta per tutte, che poi non è mai una volta per tutte. Detto questo, come dire, quello che vorrei ricordare innanzitutto è che la Resistenza, l'antifascismo, l'antirazzismo, l'antisessismo, oggi c'è la manifestazione, no, di non una di meno, eccetera, non sono un lutto, sono una festa, nello specifico una festa d'aprile. È già da qualche tempo che i nostri fascisti si fan vedere meno e sempre più tristi. Hanno capito forse, se non son proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, evviva i partigiani, è festa d'aprile. Quando un repubblichino omaggia un germano, alza il braccio destro al saluto romano. Ma se per caso incontra noi altri partigiani, per salutarci alza entrambe le mani. E forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e vive i partigiani, è festa d'aprile. In queste settimane, miei cari tedeschi, catturano le nespole persino sui peschi. L'amato Duce, il Führer, ci davano per morti, però noi partigiani siamo sempre risorti. Forza che è giunta l'ora e fui alla battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, evviva i partigiani, è festa d'aprile. Nera che noi t'abbiamo lavata, non sei di marca buona e ti sei ritirata. Si sa, le mode cambiano quasi ogni mese. Oggi per il fascista sa dice il borghese. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile. E vive i partigiani, è festa d'aprile! Forza che è giunta l'ora, forza che è giunta l'ora, di cuore la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile. E vive i partigiani, è festa d'aprile! Se qualcuno li ha fretta, ho visto che guardava il banchino, servitevi da soli, mollate quello che vedete, praticatevi, oppure fatevi gli toc toc, praticatevi lo sconto che ritenete giusto. Magari, ecco, io sono anche per lo sconto al contrario, cioè tipo costa 18 euro, lasciatene 20, che siamo dei poveri cristi, quindi sì, il, come dire, appunto, no, lo sconto al contrario. E, beh, l'abbiamo detto. Festa d'aprile, come evidentemente si capisce dal titolo della canzone, non è una canzone scritta nella resistenza, cantata nella resistenza, se no portava anche vagamente sfiga. Uno diceva festa d'aprile, poi ad aprile lo fucilavano, che cazzo di festa faceva? Dico, non si poteva sapere prima di aprile che aprile sarebbe stato il fiorile, la fine della vicenda fascista. Vabbè. Però le strofette di Festa d'Aprile sono strofette basate su vere strofette partigiane cantate durante la guerra partigiana, poi riscritte, ricomposte da Franco Antonicelli, grandissimo intellettuale antifascista, e da Sergio Liberovici, uno dei fondatori del Cantacronache, quindi che lui stesso aveva preso parte alla resistenza. Beh, di Franco Antonicelli non c'è nemmeno bisogno di dirlo, antifascista storico già ben prima. Ma ciò che ci emoziona non è tanto le strofette, ma dove queste strofette andavano. E questa è una storia che poi canteremo, soprattutto questa è una storia che vi devo assolutamente raccontare, perché durante la resistenza, forse non lo sapete, ma c'è stata una vera radio antifascista, una vera radio dei partigiani. Questa vera radio non dovete pensarla come una struttura bella, solida, era uno scatolotto di queste dimensioni, una riccia trasmittente potente rubata all'aeroporto di Cameri e con l'antenna appoggiata a un olmo in una zona fascista. Voi tutti sapete che c'erano delle radio di controinformazione, per intenderci, Radio Londra, nota per tutti, era la radio ufficiale della voce alleata, quindi quella, la radio di controinformazione militare, e come dice la parola trasmetteva da Londra. Poi c'erano le radio man mano che avanzavano gli alleati, quindi Radio Bari liberata, Radio Napoli liberata, Radio Roma liberata, Radio Firenze liberata, Radio Milano liberata, quella da cui in codice la voce di Pertini diede l'annuncio della spallata finale. Ogni tanto, quando arriva il 25 aprile, ancora si sente quel famoso annuncio in codice, Aldo dice eccetera, che sentite tutti. Ma queste erano radio relativamente col culo al caldo, cioè dalla parte in cui non rischiavano direttamente nel momento in cui trasmettevano. Invece qui stiamo parlando di una radio clandestina che prese il nome di Radio Libertà. Mamme adorate, piene d'amore, ogni ribelle vi manda il suo cuore. Il cuor di tutti i bimbi italiani trema d'amore per noi partigiani, e a colpi di mitraglia e da bombe a man, questa è la vera vita, la vita bella del partigiano. Bimba che sogni i bei partigiani, prepara i fiori, verranno domani. Sui nostri cappelli c'è un nastro rubino, perché il colore del garibaldino è a colpi di mitraglia e da bombe a man. Questa è la vera vita, la vita bella del partigiano. Sandro Berruto, nome di battaglia Sam, è un partigiano, beh, ma nemmeno comunista, è un partigiano giellista, diciamo. Sarebbe lui di Giustizia e Libertà, sarebbe un liberale socialisteggiante. Infatti ha studiato, come spesso succedeva, quelli di Giustizia e Libertà. È un farmacista. È un farmacista di Biella, inquadratosi nelle brigate garibaldine, perché lì vicino ci sono comunque soprattutto comunisti, quindi è andato a fare la resistenza insieme ai comunisti nelle brigate garibaldine. E ha questo pallino che bisogna assolutamente fare una radio di controinformazione partigiana. Perché bisogna farlo? È necessario, perché a Biella c'è una radio che si chiama Radio Baita, che è una radio infame. Non solo è una radio fascista, ed è gestita da un ex podestà di Biella e da un prete, due generi che vanno abbastanza bene assieme, ma comunque gestiscono questa radio e danno false informazioni. Proprio dicono: attenzione, consegnatevi perché sta arrivando un rastrellamento terribile, occhio che tutto quel quartiere è stato rastrellato, oppure insomma tentano di demolire il morale delle truppe dando informazioni anche false sui partigiani. Allora Sandro Berruto, detto Sam, decide che bisogna fare una radio di piena controinformazione, una radio schierata, una radio partigiana. Viene a sapere che c'è questa ricetrasmittente, riesce a farsela dare. Sandro Berruto è veramente convinto che bisogna fare la radio, ha un piccolo handicap e balbuziente, che se vuoi fare la radio insomma è un problemino, diciamo. Vabbè, non fa niente, lui scrive i testi, ci sarà un bravo speaker che gli dice, ma soprattutto si rende conto subito che bisogna anche trovare dei musicisti, perché una radio che si rispetti non deve solo dare informazioni sui partigiani, deve rappresentare la vita dei partigiani e dire quello che dicevo io, che questa gente qui sta vivendo nel momento, e quindi è gente di 20 anni che vuole, giustamente vedevo due che giustamente ballavano il valzer, vuole trasmettere questa informazione qui, che i partigiani sono gente che sta vivendo. E prima cosa identifica subito un chitarrista, Giovanni Baudrocco, detto Pala. Non era proprio un manico, era un chitarrista che suonicchiava nelle bande di paese, suonicchiava a Torino, eccetera. Però aveva anche lui un certo handicap, perché un proiettile tedesco gli aveva portato via un dito. E però sappiamo di grandi chitarristi che ce l'hanno fatta anche con due dita in meno, quindi hanno fatto la storia della chitarra. Però vabbè, lui non era così bravo, diciamo. Però insomma, Sandro Berruto, detto Sam, gli chiede: ma le prime 10 note di Fischia il vento sei in grado di farle? Vabbè, può andar bene, la Radio Libertà può partire. Radio Libertà, Radio Libertà, libera voce dei volontari della libertà. Si trasmette ogni sera alle ore 21:30 alla lunghezza d'onda di 42,5 e di 21,5. Non abbiano dubbi quelli che ci ascoltano. Siamo partigiani, veri partigiani. Lo dice la nostra bandiera, Italia e libertà. Lo dice il nostro grido di battaglia. Morte ai tedeschi e ai traditori. Dopo anni e anni di epidemia sta per finire la fasciomania, quando balbetta la nostra mitraglia più di un fascista balbetta e si squaglia, e a colpi di mitraglia e da bombe a man, questa è la vera vita, la vita bella del partigiano. Beh, ci sono subito le strofette. Le strofette diventano la cosa più nota, tutta Biella cantava queste strofette. La radio, ovviamente, era ascoltata con molta attenzione anche dai tedeschi e dai fascisti, perché volevano essere informati, e quindi doveva avere esattamente la funzione contraria di Radio Baita, cioè doveva tentare di demolire il morale dei fascisti e doveva tentare di dare informazioni anche agli altri. Infatti Sandro Berruto, detto Sam, ci tiene moltissimo che la radio abbia un notiziario piccolo anche in inglese, perché ci sono i prigionieri di guerra inglesi e americani che ogni tanto scappano e potrebbero raggiungere, perché ci sono alcuni alpini, per dire, alcuni alpini della Monte Rosa che tentennano dopo la ritirata di Russia, ce ne sono alcuni di loro che non sono d'accordo con i fascisti e qualcuno di loro passa direttamente coi partigiani, quindi questa cosa è fondamentale. E quindi subito queste strofette sono fondamentali. Considerate che queste strofette diventano decine e decine, ogni giorno ce n'era una diversa, e li scriveva Ugo Aglietta, nome di battaglia Ugo II. Non aveva una grandissima fantasia per i nomi di battaglia il compagno Ugo Aglietta. Purtroppo lui vedrà soltanto l'alba della libertà il 25 di aprile, perché il 26 di aprile da un convoglio di fascisti verrà sorpreso a Santhià insieme ad altri civili e fucilato da questi nazisti che avevano già perso ma tentavano di risalire impazziti di rabbia e di odio, e Ugo Aglietta sarà uno di quelli che verrà fucilato il 26 di aprile a Santhià. E lui scrive moltissime di queste strofette, scrive anche altre canzoni per Radio Libertà, ma alcune di queste strofe, pensate, arrivano dal popolo. Cioè la gente mandava le sue strofe, siccome se le cantavano tutti, o se le cantavano anche i fascisti, perché a furia di sentirle gli entravano in testa, e quindi sono basate su una canzone fascista. E gira gira l'elica, romba il motor, questa è la vera vita, la vita bella dell'aviator. Però tanto quella era mortifera, quando la morte passa per via, gira l'incontro in acrobazia, quanto queste sono in realtà vitali, allegre. Così i fascisti a volte si canticchiavano le canzoni scritte contro di loro. Cari fascisti, gli alpini che armate, vengon felici alle nostre brigate, ci basta un pane ed anche meno, e il partigiano sta sempre sereno, e a colpi di mitraglia e da bombe a man, questa è la vera vita, la vita bella del partigiano. Dopo anni e anni di epidemia, sta per finire la fasciomania. All'ospedale civile di Biella siamo giunti sani e non in barella, e a colpi di mitraglia e da bombe a man, questa è la vera vita, la vita bella del partigiano. E quindi Sandro Berruto, detto Sam, si scatena soprattutto alla ricerca di cantanti, gente che possa cantare, che possa fare il coro, musicisti, perché capisce che quella, le informazioni sono importanti, sono essenziali, mettono in collegamento la gente rimasta in città, i parenti con i partigiani che stanno sui monti, danno informazioni in codice, ricevono informazioni, come vi dicevo, a volte ricevevano anche le strofette. Ma voi direte, come faceva Radio Libertà a ricevere della posta? Era clandestina, non si sapeva nemmeno dove si faceva. Io questo non ve lo so dire, ho un'intuizione. Qualcuno scriveva una lettera, scriveva sopra la busta Radio Libertà e basta, la impostava, e poi evidentemente c'era qualche postino compagno che la faceva sparire e sapeva attraverso quali canali farla arrivare a destinazione. E c'è una strofa bellissima fra quelle scritte proprio da una ragazza del popolo che la manda, sentite se è poco bella. Vogliono giocare fanciulli e monelli a far la guerra fra fasci e ribelli, ma quel bel gioco non può incominciare, perché il fascista nessun lo vuol fare, e a colpi di mitraglia e da bombe a man, questa è la vera vita, la vita bella del partigiano. E quindi Sandro Berruto, detto Sam, va a cercare continuamente gente che possa cantare, per esempio, e a una volta ne trova uno bravissimo, un cantante bravo, bravo, bravo, un tenore diplomato al Conservatorio di Torino, uno che ha cantato a Reggio e poi è diventato anche partigiano, fichissimo, solo che è troppo bravo. Radio Libertà lavorava coperta da una struttura, diciamo, ora diremmo un gazebo, o in piccole casupole, o addirittura veniva montata in un pollaio, e intorno ci mettevano delle coperte militari, non per non far entrare i rumori da fuori come si fa oggi nelle sale di registrazione, ma per non far uscire i rumori da dentro, perché era pericoloso. Trovano questo tenore fantastico, bravissimo, solo che si sente a 3 isolati di distanza e non c'è coperta che possa trattenerlo. In capo a una sola trasmissione il tenore viene licenziato. Questa è una storia straordinaria. Viene licenziato perché era troppo bravo. Come vedete, la meritocrazia e la sinistra non sempre vanno bene insieme. Questo lo dico anche per i tempi che vengono. Quindi, insomma, il tenore non può cantare. Ma una volta, per esempio, la radio ha appena iniziato e sentono un rumore ritmico in avvicinamento. È un rastrellamento dei nazisti. Considerare che quelli stavano in mezzo alle battaglie, quindi si stanno avvicinando dei nazisti per un rastrellamento. A questo punto che fai? Smetti immediatamente, no? No. Se avessero smesso immediatamente, sapendo che proprio i fascisti ascoltavano la radio, se avessero smesso proprio in concomitanza al passaggio di un rastrellamento, avrebbero segnalato la loro presenza esattamente in quel luogo. Si sarebbero autodenunciati e quindi niente, stringono il culo e vanno avanti. Per fortuna quella volta il rastrellamento passa da un'altra parte, ma grazie a Dio la radio può essere smontata e tornare nel suo pollaio. C'è chi rastrella galline nostrane perché ha paura che siano partigiane. Ci basta un pane ed anche meno, e il partigiano va sempre sereno, e a colpi di mitraglia e da bombe a man. Questa è la vera vita, la vita bella del partigian. Dicon d'Italia che sono i padroni, ma anche a passeggio ci van coi cannoni. C'è poi quel tizio che gira armato, forse perché a Biella è troppo adorato, e a colpi di mitraglia e da bombe a man. Questa è la vera vita, la vita bella del partigiano. Ma la più bella acquisto che Radio Libertà fece mai fu il maestro Hans Stricker, detto suoneria. La suoneria sarebbe stata tragica durante le tra Radio Libertà, vabbè. Hans Stricker, detto Scat. Chissà se aveva scelto come nome di battaglia Scat perché gli piaceva il jazz, perché Hans Stricker era un maestro di musica, pianista, ebreo viennese, diplomato anche lui al conservatorio di Vienna, solo che siccome era povero di famiglia non aveva potuto fare la vita del concertista suonando Chopin e Rachmaninoff come sarebbe piaciuto a lui, ma già quello che diremmo ora il pianista di piano bar, cioè se ne andava in giro per le feste di paese, per le cose, e suonava il pianino alle feste al palchetto. Gira tutta l'Europa, trova moglie una svizzera francese, se ne vengono in Italia e di stanza stanno in Piemonte, perché in Piemonte, come dire, si suonava moltissimo all'epoca, feste al palchetto ovunque, quindi proprio si stabiliscono tutti e due in Piemonte per anni e anni. Scoppia la guerra, arrivano i bombardamenti, la gente da Torino, come dire, sfolla verso le colline. Lui fa la strada inversa, va a Torino, perché a Torino durante la guerra tutti i teatri erano aperti. Ora, questo lo sottolineo a lato, cioè solo durante la pandemia chiusi, per il resto anche sotto le bombe i teatri erano aperti, perché andare a teatro non è pericoloso, ve lo dico per sicurezza, andare a teatro non è pericoloso tendenzialmente, insomma è una delle cose meno pericolose e comunque fa bene all'anima, vabbè. Quindi a Torino tutti i teatri, tutti i balli erano comunque aperti, tranne ovviamente quando suonava la sirena e bombardavano, che lì andavano nei rifugi. Quindi lui si mette. E poi tutto sommato avere l'accento un po' tedesco a Torino porta anche bene in quel momento che è pieno di fascisti, solo che dopo l'8 settembre Torino si riempie di nazisti, e un tedesco capisce benissimo se un accento è tedesco o è austriaco, e quindi magari io me lo immagino, arriva l'SS e dice: ma tu hai l'accento tedesco? Ah, Hans Stricker, ma non sarà mica un nome un po' ebreo? E quindi insomma l'aria si fa pesante, il maestro Hans Stricker decide di telare e andare in collina. In collina viene subito intercettato da una banda di partigiani che gli dicono: accento tedesco, tu sicuramente sei una spia tedesca. E quindi lo mettono al muro per fucilarlo, perché lì non c'era tanto da discutere. Per fortuna, fra quelli che dovrebbero fucilarlo c'è proprio Pala, il chitarrista che intanto aveva imparato benissimo a fare le prime 10 note. Era diventato un manico. Dice: ma no, ma che dite? Quello è ebreo addirittura. Quello sicuramente è dei nostri. E Hans Stricherà il colpo di culo della sua vita e passa direttamente dal plotone di esecuzione ai microfoni di Radio Libertà. E con lui è un acquisto fenomenale, perché il maestro Hans Stricker suona la fisarmonica, non si può permettere il pianoforte, perché arrangia, canta, scrive le musiche delle nuove canzoni. Insomma, è un acquisto fenomenale. E non solo, non solo, traduce in tedesco le informazioni, e così Radio Libertà ha anche un bollettino in tedesco per quei tedeschi che volevano, come dire, che volevano diventare disertori e raggiungere i partigiani, perché come sapete ci sono stati dei disertori dall'esercito nazista che sono diventati partigiani. Insomma, una storia veramente straordinaria questa del maestro Hans Stricker. C'era qualcuno fra i cittadini che non credeva ai fascisti assassini. Dopo l'eccidio di Occhieppo Inferiore anche quei tali son pieni di orrore. E a colpi di mitraglia e da bombe a man, questa è la vera vita, la vita bella del partigiano. Radio Libertà trasmise ogni giorno. Ogni giorno, prima mezz'ora, poi un'ora, fino al 20 di aprile del 1945. Il 20 di aprile del 1945, durante la battaglia per la liberazione di Biella, Radio Libertà fu trovata e distrutta. E quindi tacque. Ma tacque per soli 5 giorni. Perché il 25 aprile il grande corteo che passava attraverso Biella liberata aveva fra i protagonisti anche Sandro Berruto, detto Sam, Pala, che suonava le prime 10 note. Lasciato, vabbè, non le suonava in quella fase perché non si era portato la chitarra in manifestazione. Il maestro Hans Stricker, che invece le suonava perché ci aveva con sé la fisarmonica, vabbè, voleva umiliare il maestro Pala. Insomma, passavano in mezzo e direttamente col corteo andarono a occupare Radio Baita, dalla quale il fascista, il podestà e il prete se ne erano scappati, temo non per sempre, soprattutto a sentire le ultime notizie, ma almeno in quella fase lì se ne erano per un po' scappati. Solo che non ci avevano più molta voglia di fare Radio Libertà. C'è una testimonianza bellissima proprio di Pala, che è stato, che è rimasto vivo, diciamo, un po' più a lungo dei suoi compagni, e che dice anni dopo: io ormai alla radio andavo solo più qualche sera, andavo dopo finite le trasmissioni, andavo in giro a suonare con il maestro Stricker, perché all'uscita della radio c'era sempre gente che ci aspettava. C'erano dei poveretti, dei ricchi e anche dei ricchissimi che ci invitavano: stasera, per carità, venite da noi. E allora io con la chitarra e lui con la fisarmonica andavamo, e veniva anche il Berruto Sam, che era d'accordo perché piaceva anche a lui. Andavamo dai ricchi come andavamo dai poveri, e questi ci preparavano sempre dei ricevimenti a base di spumante, di paste, bignole, quella roba lì. Mi ricordo un posto, un terrazzo meraviglioso, di notte, con tutte le luci accese. E allora era uno spettacolo, dopo 5 anni di guerra, vedere tutte le luci della città che erano accese. C'era voglia di stare insieme, finalmente. Era tornata la libertà. Andava per i boschi con 2 mitre e 3 bombe a mano. La notte solo il vento gli faceva compagnia. Laggiù nella vallata è già pronta l'imboscata. Nell'alba senza sole, eccoci qua. Qualcuno il conto oggi pagherà. Andava per i boschi con 2 mitre e 3 bombe a mano. Il mondo è un mondo cane, ma stavolta cambierà. Fra poco finiranno i giorni neri di paura. Un mondo tutto nuovo sorgerà. Per tutti l'uguaglianza e la libertà. Per tutti l'uguaglianza e la libertà. Hey! 25 anni questa guerra è già finita, è libera l'Italia, l'oppressore non c'è più, si canta per i campi dove il grano ride al sole, la gente è ritornata giù in città. Ci sono nell'aria grandi novità. Scese dai suoi boschi giù dai monti fino al piano, passava tra la gente che applaudiva gli alleati, andava a consegnare mitra, barba e bombe a mano. Ormai l'artiglieria non serve più, un mondo tutto nuovo sorgerà per tutti l'uguaglianza e la libertà. Hey! Suo paese che è rimasto sempre quello, con qualche casa in meno ed un campanile in più, c'è il vecchio maresciallo che lo vuole interrogare, così per niente per formalità. Mi chiamano Danilo e sono qua. Vogliono sapere perché, dove, quando e come, soltanto per vedere se ha diritto alla pensione. Gli chiedono per caso dove è stato quella sera che sono spariti il conte e il podestà, e chi li ha fatti fuori non si sa, e chi li ha fatti fuori non si sa. Eeeh! Il tempo è galantuomo, io son figlio di nessuno. 20 anni son passati e il nemico è sempre là, ma i tuoi compagni ormai non ci son più, son tutti al ministero o alla TV. Ci fosse un cane a ricordare che andavi per i boschi con 2 mitre e 3 bombe a mano. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la. Un mondo tutto nuovo sorgerà per tutti l'uguaglianza e la libertà. Un mondo tutto nuovo sorgerà per tutti l'uguaglianza e la libertà. Hey! Grazie. Come potete notare, questa è una canzone scritta dopo la Resistenza e secondo me una delle più belle, e è importante dirlo, scritta da quello che secondo me è il più grande dei dimenticati fra i grandi cantautori, o il più dimenticato dei grandi, Sergio Endrigo, che scrisse questa canzone 20 anni dopo. 20 anni sono passati e il nemico è sempre là, proprio davanti al crollo degli ideali della Resistenza, all'allontanarsi di queste cose, tant'è vero appunto, e senza, come dire, toccando anche dei punti oscuri. Ricordatevi che Sergio Endrigo era di Pola, quindi ben conosceva cosa era successo nella zona di Trieste, eppure, come dire, è una canzone chiaramente in onore dei partigiani garibaldini, dei partigiani di cui parla. Però appunto il libro è strutturato in maniera tale che ci sono i canti della Resistenza eponima, cioè quelli 8 settembre 1943, 25 aprile 1945, ma ci sono anche un po' di canti nati nei percorsi che la Resistenza ha fatto dopo nella storia, e fra questi c'è, ovviamente non poteva mancare, questa straordinaria e ahimè poco conosciuta canzone di Sergio Endrigo, perché noi ricordiamo l'Endrigo autore di canti per bambini, l'Endrigo autore di canzoni romantiche, Io che amo solo te, eccetera, ma non ricordiamo l'Endrigo impegnato, militante comunista e in questo caso anche cantore dell'epica partigiana. Però ritorniamo sulle montagne, sui monti, in questo caso sui monti intorno a Cuneo. A Cuneo c'è un personaggio straordinario, anche lui non è un comunista, è un liberale, diciamo, socialisteggiante alla maniera dei fratelli Rosselli, che ricordatevi sono stati uccisi dai sicari fascisti in quel caso della Cagoule, dell'organizzazione francese di estrema destra, nel 37 i due fratelli Rosselli sono stati uccisi insieme appunto da dei sicari che li uccisero. Hanno seminato bene, non solo nella guerra di Spagna, che era stato il grande banco di prova di quella che sarebbe poi diventata la resistenza in Italia, ma anche per quelli che sono rimasti in Italia. Fra i loro allievi rimasti in Italia c'è un avvocato di 30 anni che si chiama Tancredi Galimberti, detto Duccio. Duccio Galimberti, un personaggio fenomenale, che già il 26 di luglio, all'indomani della caduta del fascismo, va sul suo balcone nella piazza principale di Cuneo e fa un proclama alla città. Attenzione, a quell'epoca il fascismo è caduto, ma i nazisti sono ancora gli alleati, dicendo che il vero nemico da combattere ora sono i nazisti e i tedeschi. Quindi subito dopo l'8 settembre, man mano che l'esercito sbanda, raccolgono i fucili, le armi che questi avevano lasciato e li accumulano prima nell'ufficio di avvocato, nello studio legale della famiglia Galimberti. Poi si accorgono subito che non è molto prudente stare lì e cominciano ad andare prima in una montagna. Intorno a Galimberti ci sono dei ragazzi straordinari di 25-26 anni. Uno di questi è Dante Livio Bianco, comandante partigiano fondamentale, alpinista, che poi morirà prestissimo dopo la resistenza in un incidente di alpinismo. Quelle montagne gli erano rimaste nel cuore. Tancredi Duccio Galimberti, come forse sapete, fu tradito e arrestato a Torino, torturato per una settimana, non fece mai un nome né disse una parola, allora sparato rabbiosamente alle spalle come se fosse stato sorpreso mentre fuggiva senza nessun processo e abbandonato in un campo ai cani. Questa fu la fine che fece Duccio Galimberti. Poi c'era Giorgio Agosti, magistrato antifascista, che divenne poi il primo prefetto partigiano di Torino. Pensate, un prefetto partigiano durò pochi mesi in realtà, fece fucilare i partigiani, i fascisti che erano rimasti, si erano imboscati nei ruoli, insomma dei personaggi straordinari. E tutti questi presto salirono da questa casa ancora troppo scoperta in un borgo imprendibile, freddissimo, sulle montagne del Cuneese, che è il borgo di Paralup. E lì dovevano aspettare vegliando. Lì loro, nella zona di Cuneo, capirono subito di che pasta erano fatti i tedeschi, perché l'esercito nazista, man mano che rotolava giù, per usare un termine che usa proprio Dante Livio Bianco nella sua 20 mesi di guerra partigiana, rotolarono giù e già il 28 di settembre, e ci siamo, è l'anniversario oggi? Il 28 di settembre fecero il primo eccidio a Boves, in provincia di Cuneo. Passarono lì, rastrellarono e uccisero, per far capire subito di che pasta erano fatti, donne, vecchi, bambini. Ne fecero due eccidi a Boves e anche uno nel 44, perché magari avevano lasciato ancora qualcuno vivente. E lì si capirono subito. Ma mentre capivano l'entità della tragedia, come ho detto, questi erano anche ragazzi. E questi ragazzi anche si divertivano con delle canzoni che sono quasi canzoni d'osteria, canzonette. E ce n'è una di queste che io amo particolarmente e che si chiama La Badoglieide e che, se fate attenzione, sembra prendersela quasi con più violenza con Badoglio, che teoricamente era loro alleato, no? Dico, Badoglio, i badogliani erano comunque partigiani, però sembra perché avevano già capito che appena caduto il fascismo c'era qualcuno che stava facendo il salto della quaglia. Quindi, benché completamente coinvolto in tutto il ventennio di dittatura fascista nelle peggiori nefandezze, subito voleva già cominciare a ricostruirsi un immaginario antifascista per presentarsi dopo, e con lui anche il re, lo sappiamo. E così scrissero queste strofette fra Dante Livio Bianco, Giorgio Agosti e tanti altri partigiani di quella brigata straordinaria, scrissero queste strofette che hanno preso il nome di Badoglieide. O Badoglio, Pietro Badoglio, ingrassato dal fascio littorio, col tuo degno compare Vittorio, c'hai già rotto abbastanza i coglion. Trasmai di pare, trasmai di far, trasmai di Sì, trasmai di. Nonno, tutto questo salvarti non può. Ti ricordi quando eri fascista e facevi saluto romano e dal duce tendevi la mano, eri vero un gran bel porcaccion. Ti ricordi l'impresa di Etiopia col ducato di Addis Abeba, noi soldati a prender la meba mentre invece facevi milion. Ti ricordi la guerra di Francia che l'Italia copriva d'infamia, ma intanto prendevi la mancia e col duce facevi spezion. Ti ricordi la guerra di Grecia coi soldati mandati al macello, ed allora per farti più bello rassegnavi le tue dimissioni. A Grazzano giocavi alle bocce mentre in Russia crepava gli alpini, ma che importa, ci sono i quattrini e si aspetta la buona occasione. L'occasione è arrivata alla fine di luglio, e da allora per domare il subbuglio ti mettesti a fare il dittatore. Gli squadristi li hai richiamati, gli antifascisti li hai messi in galera, la camicia non era più nera, ma il fascismo restava il padrone. Era tuo quell'Adami Rossi che a Torino sparava ai borghesi, se durava ancora 2 mesi tutti quanti facevi ammazzar. Mentre tu sull'amor di Petacci t'affannavi a dar fiato alle trombe, sull'Italia calavan le bombe e Vittorio calava i calzoni. E i calzoni li hai calati anche tu nello stesso momento, ti credevi di fare un portento ed invece facevi pietà. Ti ricordi la fuga ingloriosa con il re verso terre sicure, siete proprio due sporche figure, meritate la fucilazione. Noi crepiamo sui monti d'Italia mentre voi ve ne state tranquilli, ma non crederci tanto imbecilli, non lasciarci di nuovo fregar. Se Benito ci ha rotto le tasche, tu Badoglio ci hai rotto i coglioni, per i fascisti e per i vecchi cialtoni in Italia più posto non c'è. Tas mai dit pre, tas mai fat pre, tas mai dit, tas mai fat, tas mai dit pre, tas mai dilu. Sì, sì, tas mai far. No, no. Tutto questo salvarti non può. Paraluppa arrivano, l'abbiamo detto, un avvocato, un magistrato, un altro avvocato, dei professori, degli universitari, bravissima gente, piena di cultura antifascista, ma questi a sparare proprio non è il loro mestiere, lo sarà, impareranno presto, ma non è ancora il loro mestiere. Per fortuna che nel borgo di Paraluppa sale uno che invece ha veramente studiato come si fa la guerra. È uno dei miei personaggi preferiti in assoluto di quella tradizione e anche di dopo. Si chiamava Nuto Revelli. Nuto Revelli è stato fascista, a 20 anni è stato fascista. È andato all'Accademia di Modena e ha studiato per fare l'ufficiale. Era patriottico ed è partito, quando il duce gliel'ha detto, è partito per la guerra di Russia. E lì ha cambiato idea. Lì ha visto i suoi commilitoni mandati con le scarpe di cartone, con i piedi congelati. Ha visto i suoi amici morire con le bocche piene di neve. Ha soprattutto visto assaltare questo popolo che non aveva assolutamente fatto nulla all'Italia, che qualche volta addirittura li accoglieva e li, quando erano feriti, li accoglieva e li curava. Quindi insomma ha proprio cambiato idea, ha capito che il vero nemico è quello che gli sta alle spalle, quelli che li hanno mandati ad assalire. Pensate che oggi vogliono, il giorno della battaglia di Nikolajevka, vogliono farlo diventare un momento dell'orgoglio alpino italiano, mentre un momento della grande vergogna di aver assalito un popolo che non aveva fatto nulla all'Italia. Insomma, è tornato, si è vista tutta la ritirata terribile dalla Russia ed è tornato arrabbiato, e al 25 luglio ancora non ci ha capito niente. Lui ha l'onestà di dirlo: se forse mi fossi fatto picchiare non so se sarei diventato delle bande nere, io non penso. Però l'8 settembre gli chiarisce veramente come stanno le cose. E così Nuto Revelli prende in mano il suo fucile mitragliatore Thompson, che ha tenuto perfettamente oliato, e sale in montagna e arriva nel borgo di Paraluppa e diventa uno dei capi partigiani fondamentali di quella brigata che prenderà il nome di Italia Libera. Dopo la guerra avrà una lunga vita, nonostante le ferite ricevute, e sarà un iniziatore delle ricerche sul campo. Documenterà in un libro fenomenale la fine del mondo contadino dalle sue parti. Questo libro io ve lo consiglio a tutti, si chiama Il mondo dei vinti ed è un libro eccezionale come tutti per altri libri di Nuto Revelli. Ma in quella fase lì scrive una canzone, ovvero prende a prestito un canto degli alpini e ci scrive nuove parole. E in queste nuove parole racconta la sua storia. C'è un alpino caduto in Russia e un partigiano morto che si incontrano. Ed è il vecchio e il nuovo Nuto Revelli che dice: non bisogna solo sconfiggere i fascisti, bisogna sconfiggere il fascismo, quella cosa che è rimasta occulta nel patrimonio genetico degli italiani. E dice: contro quelli non si può avere nessuna pietà, pietà l'è morta. Lassù sulla montagna, bandiera nera, è morto un partigiano nel far la guerra. Un altro italiano va sotto terra. Terra trova un alpino caduto nella Russia con il cervino. Ma prima di morire cor pregato che Dio maledica quella leato, che Dio maledica chi ci ha tradito. E poi è fuggito. Tedeschi traditori, l'alpino è morto, ma un altro combattente oggi è risorto. Combatte il partigiano la sua battaglia, tedeschi e fascisti fuori d'Italia, tedeschi e fascisti fuori d'Italia. Forza, pietà, le morta. Gridiamo a tutta forza, pietà, le morta. Proprio negli stessi giorni in cui si radunano i primi partigiani a Paralup, anche sui monti d'Imperia cominciano a radunarsi le prime formazioni partigiane. Lì si trova un personaggio fenomenale, il nostro Che Guevara, medico e comunista. Si chiamava Felice Cascione. Suo nome di battaglia, Umegu, il medico. In dialetto imperiese. Umegu ha avuto vita difficile per i suoi 26 anni. Figlio di una madre orfana di guerra. No, cioè, lui era orfano di guerra, sua madre aveva perso il marito delle conseguenze delle ferite nella Prima Guerra Mondiale. Con questo bambino piccolo, una maestrina, però si sapeva che era di sentimenti antifascisti, quindi la trasferivano. Ora, sulle montagne liguri è difficile arrivarci oggi, figuratevi con le strade dell'epoca, per cui gli rendono la vita difficile. Riesce comunque a far studiare questo figlio, che di suo è bello come un dio, alto, biondo, bellissimo. Atleta, un piccolo campione di pallanuoto, tant'è vero che anche i GUF, i gruppi universitari fascisti, se lo tengono stretto pur sapendo che non è che sia proprio fascista, perché li fa figurare bene quando ci sono le gare. Però si sa che è antifascista, riesce a laurearsi in un modo o in un altro ed esercita la sua passione, il mestiere di medico, solo che lo può esercitare solo per 13 mesi e lo esercita da comunista, cioè insomma dalle le medicine gratuitamente, c'è la guerra intorno, dalle medicine gratuitamente ai poveri, assiste la povera gente, poi dopo 13 mesi decide che per fare il medico è meglio se sale in montagna, quindi dopo l'8 settembre immediatamente sale sulle montagne di Imperia e diventa un comandante partigiano, si inquadra nel Brigate Garibaldine e poi presto però è un medico, è un medico nell'anima. Umegu è veramente un medico. Quando combatte contro i fascisti è un partigiano, ma se per caso c'ha qualche fascista ferito lo cura esattamente come i suoi e gli dicono ma guarda che quelli sono fascisti, e lui dice ma io sono un medico, e quindi li cura. Anzi, addirittura a volte si traveste da donna per scendere giù a Imperia e continuare a curare i suoi pazienti. Considerate che proprio qualche mese fa stavo facendo una piccola cantata in un quartiere qui popolare, La Barona, qui vicino, e si avvicina una signora di 60 anni, commossa mentre io stavo cantando questa canzone, e mi dice, e con le lacrime agli occhi, mi dice, io sono d'Imperia. Dico, ah, è per Felice Cascione. Fa, sì, mia mamma era sua paziente. Si ricorda che c'aveva una bella voce. Questa memoria, l'eroe popolare, aveva una bella voce. Continua a fare il medico, cura i fascisti, dicono guarda che quelli che curi ti rovinano, e in effetti lo rovinano. Due di questi fascisti scappano e denunciano il rifugio dei partigiani. Arrivano le bande nere, arrivano i nazisti. Lui teoricamente sarebbe già lontano, ma capisce che ci sono dei documenti dentro il rifugio partigiano, e quindi con una sortita tenta di recuperarli. In questa sortita viene ferito una gamba. Capisce che non ha più scampo. Allora l'ultimo gesto che si ricorda fare a Felice Cascione è mettersi la mano in tasca, tirare fuori le tessere annonarie, all'epoca per comprare il pane, sapete, servivano le tessere, e darle al suo luogotenente e dire scappa, a te raccomando sti fioi, ti raccomando questi ragazzi. Dopodiché la storia si sa come va a finire, arrivano i fascisti e gli sparano in testa senza nessun processo, e così a 26 anni muore Felice Cascione. Esattamente un mese prima ha composto su un'aria russa un canto che diventerà il vero inno partigiano riconosciuto da tutti i partigiani. Ha fatto in tempo anche a cantarlo una volta, il 6 gennaio, il giorno della Befana del 1944, davanti a una chiesa vicino a Imperia, e oggi c'è una targa che ce lo dice, fu cantata per la prima volta Fischia il vento. Bisogna andare a conquistare. primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. È patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpire. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpire. E se ci coglie la crudele morte, vendetta verrà dal partigiano. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditore. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditore. Il vento calma la bufera, torna a casa il fiero partigiano. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi alfi liberi siamo. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi alfi liberi siamo. Sventolando la rossa sua bandiera, vittorio, se al fin liberi siamo. Altra bella storia di resistenza, scusate se ve le racconto, ma proprio questo, sono bellissime. È quella di questa canzone, che è l'unica canzone della quale sappiamo con precisione che anche la musica fu scritta da un partigiano combattente, perché di tutte le altre le musiche erano, beh, questa che avete sentito è Katyusha, è una canzone russa celeberrima che avevano imparato proprio quelli che come Nuto Revelli avevano fatto la ritirata di Russia, e su questa melodia così sovietica nell'idea dei garibaldini era stata scritta questo testo qui. Altre utilizzavano canzonette fasciste, altre utilizzavano canzoni dell'antifascismo precedente, altre utilizzavano semplicemente melodie delle radio che andavano per la maggiore, quindi erano canzonette alla fine, erano canzonette, sono solo canzonette, direbbe quello lì, insomma. E però c'è almeno una canzone di cui siamo certi che la musica fu composta da un partigiano combattente. Una canzone bellissima, anche questa ha la sua parte di vitalità, di allegria estrema, e anche questa ha la sua tragedia sullo sfondo, perché nasce sullo sfondo di un nome che è terribile. Il nome è Benedicta. Benedicta è un santuario collocato nella provincia di Ovadala, laddove, diciamo, la provincia di Alessandria digrada verso Genova. Lì si raccolsero i primi partigiani genovesi. Beh, Genova era una città antifascista per tradizione, lo sapete, nel porto i fascisti non poterono mai entrare veramente. Porto mantenne, ecco, per cui appena ci fu una parte di antifascisti si raccolsero da quelle parti, ma la tragedia volle che nei primi mesi in cui si raccoglievano dopo l'8 settembre anche moltissimi contadini completamente sprovveduti colpiti dal bando Graziani, criminale di Graziani, aveva detto che avrebbe fucilato in petto chiunque in età da fare il soldato non si fosse presentato, e presentarsi voleva dire finire nelle bande nere o finire deportati in Germania. Quindi molti di questi contadini scapparono senza nessuna preparazione militare, senza nessuna arma, e chi gliele dava, non erano cominciati i lanci, non c'era ancora nulla, e quindi si raccolsero tutti in questo che sembrava un luogo protetto ma che invece divenne una specie di gola infernale in cui il primo rastrellamento dei nazisti e dei fascisti criminali prese a centinaia, quindi centinaia di queste persone furono fucilati intorno al santuario della Benedicta, che poi fu fatto saltare, dico io, perché nemmeno Dio vedesse tanto orrore. E fra quelli che furono fucilati, pochi preparati, c'era Emilio Casalini, detto Cini, partigiano di Ponte Decimo, quartiere popolare di Genova, che scrisse il testo di questa bellissima canzone che, secondo me, se non è diventata fra gli inni più famosi della Resistenza, al pari di Fischia il Vento o di Bella Ciao, è perché non usa il termine partigiani, ma ne usa uno che per me è quasi più caro. Usa la parola ribelli. Dice: siamo i ribelli della montagna. Dalle belle città date al nemico, fuggimmo di su per l'aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo i muscoli ed i cuori in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Di giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, siamo d'Italia l'armata forte e fiera, sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, provammo l'ardor della grande riscossa, sentimmo l'amor per la patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. E ora, le canzoni, c'è una, come dire, ci sono delle formazioni partigiane che sono le più infamate di tutti. Beh, in qualche modo i partigiani di montagna, quelli che combattevano a viso aperto, respirando l'aria, cantando queste meravigliose canzoni, è difficile demolirli. Una gioventù salita in montagna che aveva preso questo coraggio, questa forza, è difficile demolirli. Ma invece i gappisti no. I gappisti sono quei partigiani che combattevano in città. E su quelli si esercita soprattutto il revisionismo. Lo sentirete spesso, no? Da molte parti. Ma la colpa delle fucilazioni delle fosse ardeatine è in fondo la colpa dei gappisti che fecero l'attentato di Via Rasella e che poi non si presentarono. C'è anche questa cosa qui, questa stronzata che viene detta continuamente quando il manifesto che proclama il fatto che saranno fucilati, che sarà fatta la rappresaglia nei confronti della popolazione dice quest'ordine è già stato eseguito, cioè nel momento stesso in cui pubblicano la cosa hanno cominciato immediatamente, cioè l'attentato è nel pomeriggio, dalla sera cominciano a rastrellare la gente dalle carceri e mandarla alle fucilazioni, quindi questa è un'altra storia. Ma anche a Milano viviamo questa cosa, no? Le fucilazioni di Piazzale Loreto, la gente fucilata e lasciata lì con i cadaveri lasciati alla vista dei fratelli, dei figli, dei parenti che passavano e dovevano vederli, col divieto di rimuoverli dal selciato di Piazzale Loreto, perché lì nasce l'odio di Piazzale Loreto, dal fatto di aver visto i propri parenti uccisi e lasciati lì. Quelli lì pure si dicono una rappresaglia dovuta a una bomba gappista, no? Come se per le bombe che mettevano invece i nazisti poi loro chiedessero scusa, cioè una follia totale. Così pure, come, insomma, cioè questa vicenda, il gappista in qualche modo è il partigiano più scivoloso, più difficile, perché vive nascosto, fa una vera e propria azione di guerriglia. Non a caso poi Feltrinelli aveva chiamato Gap le sue formazioni e cercava. Ecco, ovviamente i gappisti non hanno canzoni, perché se devi stare nascosto in città ti devi stare bello zitto, non è che vai in giro a cantare, non avevano la loro funzione. E quindi anche questo è un problema, perché non ci sono canzoni che perpetuano la, come posso dire, l'epica partigiana dei gappisti, che pure sono stati dei veri e propri eroi, a volte combattendo da soli in una solitudine in cui non sapevano nemmeno se il compagno della stanza a fianco era un fascista o se l'amico che avevano lasciato era stato trovato e torturato, se li stava denunciando, perché sai, in montagna li vedevi arrivare i nazisti. Sì, potevi essere anche sorpreso, ma li vedere. Ma in casa ogni volta che bussavano non sapevano se ti stavano consegnando le armi o se era uno delle brigate nere che ti prendeva per torturarti. E qui a Milano, chiunque ha letto Uomini e No ne sa qualche cosa di cosa sono state le GAP a Milano. Come pure sa che fine hanno fatto a volte partigiani eroici. Mi piace ricordare Bruno Fanciullacci, l'eroico partigiano fiorentino, che peraltro eseguì l'azione contro Giovanni Gentile e poi fu torturato e ucciso torturato al punto che lui stesso si lanciò dalla finestra pur di non parlare, per non rischiare, insomma, i gappisti sono stati assolutamente eroici in molte occasioni. Qui a Milano, come molti di voi sanno, c'è una figura leggendaria di gappista che si chiamava Giovanni Pesce, noto come comandante Visone. Leggendario lui, e poi come sempre succede, più leggendaria di lui secondo me, ma più lasciata, come dire, nella parte oscura anche per la moglie, Onorina Brambilla, Nori Brambilla, che lei sì fu torturata e inviata nel campo di concentramento di Bolzano, e lei non fece una parola, se no tutte le GAP milanesi sarebbero cadute, perché era lei che portava peraltro l'esplosivo per le azioni che favorirono i fondamentali scioperi prima del marzo 43 e poi del marzo 44, che misero in ginocchio, come dire, che fecero capire che c'era come una grossa solidarietà con i partigiani, cioè questi scioperi eroici della Breda, poi non sto qui a farvi tutta la storia. C'è però una canzone molto bella, il cui testo fu scritto da Dario Fo per uno spettacolo che aveva un titolo che già di per sé era meraviglioso, Vorrei morire anche stasera se dovessi pensare che non è servito a niente. E le canzoni, fra le canzoni di questo spettacolo ce n'era uno dedicato proprio alla GAP e in particolare a Giovanni Pesce, ispirato al suo libro Senza Tregua. Ci tengo particolarmente a farla qui, perché chi invece scrisse la musica di questo brano qui era un nostro carissimo amico e anche un carissimo amico del Conchetta, che si chiamava Paolo Ciarchi e che qualche anno che se n'è andato. La canzone apre con la frase finale, un punto su cui secondo me è necessario tornare. La GAP quando è che arriva non manda lettere né bigliettini e non bussa alla porta. Sei già persona morta che il popolo ti condanna. L'ingegnere della Caproni il 2 di marzo arriva in tassì. Tornava con due della Muti, sue guardie personali e noi lo si va a giustiziar. Quel traditor d'accordo con i tedeschi stava a smantellare le fabbriche, le macchine spediva tutta in Germania dei Krupp. E per salvare le macchine ha fatto sciopero generale e il capo reparto Trezzini con altri 7 operai li ha messi a San Vittore. È stato l'ingegnere a fare la spia, ma la pagherà. Ci tiene tutti sott'occhio e il povero Trezzini con gli altri li ha fucilà. Ma adesso tocca a lui, la GAP lo aspetta sotto, sotto ad un semaforo che segna proprio rosso, e addosso si mette a sparare. Pesce Giovanni spara, però prima gli grida: e in nome del mio popolo, ingegnere, che io t'ammazzo con le tue guardie d'onore. In fabbrica fanno retate, catturano gente, non parla nessuno, e 30 operai deportati li mettono nei vagoni piombati diretti a Dachau. È il 23 d'aprile, i tedeschi vanno a minare la fabbrica. I tedeschi minano la fabbrica. Vogliono distruggerla prima che arrivino i liberatori. E lasciarla ai liberatori. Ma gli operai sparano, difendono la fabbrica e salvano le macchine che sono il loro pane. E in molti si fanno ammazzar. Adesso siamo liberi, nella fabbrica torna il padrone. Arriva un altro ingegnere, stavolta però un partigiano, Brigata Battisti, Partito d'Azione. Ma ecco al primo sciopero c'è un gran licenziamento. È stato l'ingegnere a cacciare via quei rossi che la fabbrica aveva salvato. Sta guerra di liberazione, domando da cosa che ci ha liberato. Ingegneri, padroni e capi sono tutti democratici, ma noi ci ha licenziato, addosso ci hanno sparato, in galera ci hanno sbattuto. Allora per noi operai sta liberazione è ancora da far. Ma allora per noi operai sta liberazione è ancora da far. Ma allora per noi operai sta liberazione è ancora da far. Ma allora per noi operai sta liberazione è ancora da far. Nel mio nel mio libro, a questo punto lo diciamo, comprate quel libro, nel senso che c'è di bello che i libri sono più belli dei dischi, cioè proprio come oggetto, bisogna dire. Il disco ha perso un po', il CD ha perso un po' il suo fascino, no? Oggi un CD lo compri, non sai più nemmeno dove metterlo, perché quindi è un acquisto meraviglioso, perché è proprio un modo di sostenere chi lo fa, perché le nostre canzoni sono liberamente ascoltabili su YouTube, le potete scaricare, le potete sentire dove volete. Noi non crediamo nella proprietà e quindi giustamente iniziamo dalle cose che vendiamo noi, a non credere nella proprietà. Però ci abbiamo un sacco di bellissimi dischi molto ben curati, se li volete comprare sapete che è un investimento sicuro. Oggi sono già vecchi, quindi domani saranno puro antiquariato, per cui fate questo investimento, compratevi i dischi. Però i libri no, il libro è un'altra storia, il libro lo leggi subito ed entri in relazione, non hai bisogno di un oggetto in cui metterlo il disco, di farlo suonare da qua. Il libro sei tu che lo leggi direttamente, quindi c'è un rapporto personale, individuale, che inizia subito. Ha un problema rispetto al disco: pesa molto di più, e quindi voi sapete, noi ce li portiamo in giro, per cui io vi chiedo di mettere in atto la solidarietà operaia e di aiutare 3 famiglie bisognose, le nostre, dopo la pandemia poi non ne parliamo proprio, e comprare quei libri, che sarà un modo di alleggerire la vostra coscienza, ma soprattutto di alleggerire le nostre borse quando torniamo a casa. Quindi è essenziale che compriate. Bene, in questo libro, fra le altre canzoni, c'è un piccolo, io ho detto, ci sono la maggior parte delle canzoni della Resistenza che disegnano alcuni percorsi nella Resistenza. Ovviamente non tutti i partigiani hanno cantato, quindi non abbiamo tutta la storia partigiana, ma ne abbiamo una bella sezione. Poi, come vi dicevo, ci sono le canzoni dedicate alle storie partigiane nate dopo, come questa che avete appena sentito, come la GAP per l'appunto, o quella di Sergio Endrigo. Poi ancora c'è una piccola sezione, ma ci ho tenuto a metterla perché il libro era sulla Resistenza italiana, ma io ho tenuto particolarmente a mettere una piccola sezione che ho chiamato Canti della Resistenza Europea e Internazionale, perché la Resistenza è stato un fatto che ha toccato ogni luogo in cui c'erano i nazisti, quindi la Germania evidentemente, la Polonia, insomma, la Cecoslovacchia, eccetera. C'è quindi questa sceltissima sezione di canzoni, ed è così scelta, si tratta di una decina di testi, che ve lo posso dire con tranquillità, sono tutti dei capolavori. veramente. Fra questi capolavori c'è una canzone che fa parte della tradizione della resistenza francese. Voi sapete, la resistenza francese ha due canti essenziali. Uno divenne famoso anche con l'interpretazione di Yves Montand ed era Le Chant des Partisans, un canto di partigiani gappisti. Ami, entends-tu le vol noir de corbeau sur la plaine? Ami, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Vabbè, ed è molto bello, molto diffuso. Ma gli stessi autori fecero un'altra canzone che all'epoca si diffuse di meno. Questa canzone è una canzone, diremmo, più esistenziale sul mondo partigiano, più scura, più scivolosa, più notturna. È una canzone molto bella. Il testo fu scritto da Joseph Kessel, ebreo di origine lituana, poi diventato un grande scrittore, all'epoca giornalista, in quel momento a Londra. La canzone fu scritta proprio nella sede di Radio Londra, e da Anne Marley, un'altra autrice di origine russa, col nome naturalizzato francese, chitarrista, cantante, diseuse, varie cose. Fecero questa canzone, che però non divenne famosa come l'altra, Amiens. Però divenne famosa anni dopo, alla fine degli anni 60, quando un grande cantautore canadese, Leonard Cohen, la tradusse in parte in inglese e ne fece una versione anglo-francese, diventata famosissima e cantata anche da Joan Baez. Ma la versione più famosa resta quella cantata da Leonard Cohen. E ora ve la facciamo sentire. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I've changed my name so often, I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go home. The frontiers are my prison. The wind is blowing, to the graves the wind is blowing, freedom's song will come. Then we come from the shadow. Les Allemands étaient chez moi, ils m'ont dit résigne-toi, mais je ne j'ai repris mon arme. J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Vieillant dans un grenier, dans la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Oh, the wind is blowing, to the graves the wind is blowing, freedom song will come. They will come from the shadow. Guido Baldoni alla fisarmonica, alla voce. Grazie. Rocco Marchi al basso e agli strumentini. Alessio Lega. Mentre ci accingiamo a lasciarvi, volevo dire che mi dispiace, quando faccio questo spettacolo, mi piace da pazzi questo spettacolo, perché nonostante molte tragedie che si cantano, è uno spettacolo pieno di canzoni vitali, secondo me. Questa cosa qui mi fa impazzire, che finalmente fuori dall'ego riferimento dei cantautori, anche di tanta musica di rivolta che ho percepito, eccetera, non è mai rancorosa, è sempre alla ricerca di un mondo nuovo. Ma una cosa mi sta sui coglioni quando faccio questo, che non c'è nessuna storia del sud. Ma voi sapete, io sono di Lecce, quindi cioè proprio dalle mie parti, per ragioni storiche, la resistenza non è potuta passare, perché per come è andata la storia, appena sopra Bari ha conosciuto una breve stagione, fra l'altro strana, ambigua, con una morte, famosa liberazione del porto di Bari da parte del generale Nicola Bellomo, fra l'altro l'unico generale che fu fucilato in Italia, vabbè, strano, l'unico che ha veramente combattuto i tedeschi una parte della sua vita, vabbè, lo fucili, gli inglesi lo fucilano, vabbè. Poi però ci sono storie ovviamente di singoli partigiani del sud, i fratelli di Dio, i fratelli Antonio e Alfredo di Dio erano due partigiani di Palermo. Anche loro avevano studiato a Modena, quindi l'8 settembre li sorprese a Modena, decisero di evadere e andarono a raggiungere in Valle Strona il mitico comandante Beltrami che fece la resistenza in Valle Strona, e poi raggiunsero la liberazione della Valdossola e purtroppo lì vi morirono, ma scrissero anche un canto, fra l'altro, il canto Marciam Marciam, che è un canto di origine bersagliera. E con la stana ardente, il passo accelerato, cammina il partigiano col zaino a farde, ed è bellissimo, dice: marcia, marcia, marcia, ci batte il cuore, non c'è tenente né colonnello né capitano né generale, questa è la marcia dell'ideal, dell'ideal, un partigiano vorrei sposare. Questi avevano fatto i militari di mestiere, quindi era fantastico, avevano capito da soli, avevano 20 anni, che l'obbedienza non è più una virtù, come diceva un prete un po' particolare. E però questo è potente, purtroppo caddero entrambi. Beh, come c'è pure il comandante Facio, Dante Castellucci, calabrese, amico dei fratelli Cervi, ahimè fucilato da Piombo Amico, fucilato da altri partigiani, un'altra storia oscura, quella del leggendario comandante Facio, a cui diedero anche la medaglia d'argento al valore, insomma, dopo averlo fucilato loro, vabbè. Ci sono quindi delle storie che si originano nel sud, ma non c'è nessuna storia di liberazione del sud tranne che una leggendaria storia, che peraltro anch'essa inizia proprio oggi. E quindi vorrei dedicare questo intero spettacolo alle 4 giornate di Napoli. Il 28 settembre. Il 28 settembre del 1943 Napoli, da sola, prima dell'arrivo degli alleati, iniziò una liberazione, fu la prima città d'Europa a liberarsi da sola dai nazisti, questo è fondamentale. Esiste una meravigliosa canzone di Eugenio Bennato, del periodo più bello dei Musica Nova, che si chiama Canto allo Scugnizzo, e che ricorda proprio quegli scugnizzi di 10-11 anni che combatterono e a volte morirono nel rione Sanità per liberare Napoli, strappando le armi ai tedeschi, facendo imprese pazzesche. Noi l'abbiamo voluto unire a un testo bellissimo, questo l'abbiamo tradotto in italiano, scritto da Salvatore Palomba, uno degli ultimi grandi poeti della grande tradizione napoletana ancora vivente, e che fu, diciamo, messo in musica e recitato da Sergio Bruni, che insieme a Roberto Muro è stato uno dei mostri sacri dell'interpretazione del Novecento della canzone napoletana, e che si chiama Napoli non to scurda, Napoli ricorda, non te lo scordare. E quindi con questo canto noi veramente vorremmo salutarvi come una speranza, come un momento che viene dal sud dell'Italia, e speriamo prima o poi una liberazione che dal sud del mondo arrivi a farci liberare anche noi che stiamo in questo nord talvolta poco simpatico e così oppressivo. Con questo veramente Guido Baldoni, Rocco Marchi e io vi salutiamo, grazie di essere stati qui. Il 28 settembre del 43 si tinsero di rosso i gelsomini sul balcone del quartiere Mater Dei. Uomini, donne, vecchi e ragazzi che conoscevano appena la storia, bambini che non ne sapevano proprio niente, seppero benissimo cosa c'era da fare. Napoli, non lo scordare. Ma che chitarre, che bambino! Il 28 settembre del 43 l'accompagnamento lo faceva la mitraglia. Da Vomero a Posillipo, dalle fontanelle fin sul ponte della sanità, lo scugnizzo cantava. Andatevene sporche carogne, andatevene. Strillava, correva, saltava e moriva. Moriva senza sapere perché. Per la libertà, libertà senza discorsi, comizi e bandiere. Bisogno della libertà della pecora e del lupo. Bisogno della libertà dell'uomo che ancora non era avvelenato da una montagna di parole. Semplicemente libertà. Napoli, non lo scordare. Ho visto ma m'hanno ritto che era nazista, son copeziente, non succa burrista, e tempo guerra fammi assai più triste, ma presso a loro Napoli resiste, ma presso a loro Napoli resiste, ma presso a loro Napoli resiste. Oh, 43, nascuso ritte, pico ritte, piazze, sono disperate e fanno cose pazze, se sentono li spara tutto pizze, sono che guagliune, Napoli, sono le scugnizze, sono che guagliune, Napoli, sono le scugnizze, sono che guagliune, Napoli, sono le scugnizze. Oh, 43, tutte le sere si spara le botte, ma che se vuote non ne piedi grotta, e mezzo fuoco e lampe de scuppette, se sentono i scugnizzi che combatte, se restano i scugnizzi che combatte, se sentono i scugnizzi che combatte. Se liberata per piccole quartiere non sopporta, ce restano scugnizze che sono morte, ce restano scugnizze che sono morte, ce restano scugnizze che sono morte. Pure rinto mercato, uno scugnizziello bello c'è restato, chissà quale carogna gli ha sparato, la vecchia guardia riscio quanto è bello, ma pare tale quale un massaniello, ma pare tale quale un massaniello, ma pare tale quale un massaniello, ma pare tale quale un massaniello. Il 28 di settembre del 43 il popolo napoletano combatteva per cancellare 100 anni di lazzaroni e lazzaronate, franceschello e franceschellate, vermicelli, tarantelle, pulcinelle e colombina, festa, forca e farina e tutte quelle cazzate che lo avevano addormentato. Il popolo napoletano combatteva e moriva per scrivere quattro pagine, tutte con la stessa parola: dignità. Napoli, non lo scordare. Se non ci ammazza i crucchi, se non ci ammazza i bricchi, i bricchi ed i crepacci e il vento di Marenga. Se non ci ammazza i crucchi, se non ci ammazza i bricchi, quando saremo vecchi ne avremo da raccontare. Quando saremo vecchi ne avremo da raccontare. La mia mamma la mi diceva: non andare sulla montagna, mangerai sol polenta e castagna, ti verrà l'acidità. Mangerai sol polenta e castagna, ti verrà l'acidità. La mia amorosa la mi diceva: non andare con i ribelli, non avrai più miei lunghi fratelli sul cuscino a riposar. Non avrai più miei lunghi capelli sul cuscino a riposar. Se non ci ammazza i crucchi, se non ci ammazza i bricchi, i bricchi ed i crepacci nel vento di Marenga. Se non ci ammazza i crucchi, se non ci ammazza i bricchi, quando saremo vecchi ne avremo da raccontare. Quando saremo vecchi ne avremo da raccontare. Questa notte mi sono insognato che scendevo giù in città, c'era la mamma vestita di rosso che ballava col mio papà. C'era la mamma vestita di rosso che ballava col mio papà. C'era i fascisti vestiti da prete che scappavano di qua e di là. C'era i fascisti vestiti da prete che scappavano di qua e di là. C'era i nazisti buttati in ginocchio che chiamavano pietà. C'era i tedeschi buttati in ginocchio che chiamavano pietà. Se non ci ammazza i crucchi, se non ci ammazza i bricchi e i crepacci e il vento di Marenga. Se non ci ammazza i crucchi, se non ci ammazza i bricchi, quando saremo vecchi ne avremo da raccontare. Quando saremo vecchi ne avremo da raccontare. Se non ci ammazza i crucchi, se non ci ammazza i bricchi e i crepacci e il vento di Marenga. Se non ci ammazzi i cucchi, se non ci ammazzi i bricchi, quando saremo vecchi ne avremo da raccontare. Quando saremo vecchi ne avremo da raccontare. Se non ci ammazzi i cucchi, se non ci ammazzi i bricchi, i bricchi e i crepacci e vengo di Marenga. Se non ci ammazzi i cucchi, se non ci ammazzi i bricchi, quando saremo vecchi ne avremo da raccontare. Quando saremo vecchi ne avremo da raccontare.